Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Coronavirus, possibile picco in Italia entro questa settimana, dice l'OMS. Negli Stati Uniti 50.000 contagi, New York epicentro, in Spagna oltre 3.000 vittime, superata anche la Cina. Fino a 5 anni di carcere per i positivi che violano la quarantena e multe fino a 3.000 euro, intanto lo prevedono le nuove misure approvate ieri dal governo. In corso in questi minuti l'incontro coi sindacati per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Aiuti all'economia, gli Stati Uniti approvano il piano da 2.000 miliardi di dollari, in Germania il ministro dell'economia annuncia 156 miliardi di deficit, possiamo permettercelo, domani nuovo vertice europeo. Ancora 24 ore di freddo intenso sull'Italia con gelo e neve sui campi al nord, ma anche in Puglia e Basilicata, temperature in risalita da domani con possibili piogge. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione. Ben ritrovati con il punto delle notizie. A metà giornata su Radio 24, coronavirus in apertura dopo la nuova stretta sulle misure annunciata ieri dal governo con pene e sanzioni aumentate per chi non rispetta le regole. C'è attesa invece proprio in questi minuti per la trattativa sul fronte economico tra il governo e i sindacati che chiedono sicurezza, condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro ancora aperti. Per quanto riguarda la scena internazionale, invece, aumenta il contagio negli Stati Uniti molto velocemente con epicentro New York. In Spagna è stato superato il numero di vittime cinese con oltre 3.400 morti. Intanto, per quanto riguarda l'Italia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di un possibile picco da raggiungere questa settimana. In Italia il picco potrebbe essere raggiunto questa settimana, a dirlo questa volta è l'Organizzazione Mondiale della Sanità per bocca del direttore vicario Ranieri Guerra. Il rallentamento della velocità di crescita, dice il funzionario, è un fattore estremamente positivo. In alcune regioni siamo vicini al punto di caduta della curva. Quanto ai tassi di mortalità, dice Guerra, ci aspettiamo di vederli cadere con alcuni giorni di ritardo. E intanto ricordiamo i dati diffusi ieri dalla Protezione Civile, oltre 54.000 malati in Italia, con un incremento rispetto al giorno precedente di 3.612 contro i 3.780 del giorno prima. Torna invece a salire il numero delle vittime, 743 contro 601. Sul fronte delle misure di contenimento invece in vigore le nuove sanzioni previste dal decreto varato ieri, da 400 a 3.000 euro per i trasgressori e carcere fino a 5 anni per chi positivo viola la quarantena. Decreto che elenca 28 restrizioni accorpando quelle già adottate con diversi provvedimenti, il cui orizzonte temporale è il 31 luglio, perché a quella data è prevista la fine dello stato di emergenza. Ma Conte tranquillizza, le misure non saranno prorogate fino a quella data, ma si deciderà di volta in volta in base ai dati del contagio. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E ora veniamo alla situazione in Lombardia, dove il rallentamento dei contagi, dei casi di ieri, ha subito una mini inversione di tendenza. Si continua a stringere i denti e a lavorare negli ospedali. Comincia da oggi il graduale avvio dell'ospedale da campo di Crema, lo spiega il sindaco della cittadina lombarda Stefania Bonaldi. L'ospedale sarà gestito dall'esercito, dall'azienda sanitaria di Crema e dalla cosiddetta Brigata Cubana, costituita da 52 fra medici e infermieri arrivati da Cuba domenica pomeriggio. L'ospedale è dotato di 32 posti letto, tutti con ossigeno, e 3 di terapia intensiva, oltre a una sala radiografica specializzata. La struttura, allestita in pochissimi giorni, servirà a lungo per fronteggiare l'emergenza, dal momento che l'ospedale di Crema vive ancora una situazione complessa, con un numero di pazienti che continuano ad affollare pronto soccorso e reparti. I contagi in regione sembrano rallentare da 3 o 4 giorni. Spero che queste giornate rappresentino un'interruzione dell'aumento, ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Intanto l'assessore al welfare Giulio Gallera risponde alle accuse del PD sulla gestione dell'emergenza. No, non mi candido a sindaco di Milano, dice. Resto in prima linea a fianco di medici e infermieri. Siamo in guerra e resto al mio posto. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sempre in Lombardia era stato annunciato per oggi lo sciopero dei lavoratori metalmeccanici appartenenti a quei settori inclusi nell'elenco delle attività essenziali, lavoratori che chiedono condizioni di sicurezza, mentre è ancora in corso un nuovo incontro tra il governo e i sindacati proprio per trovare una soluzione. Governo e sindacati sono alla stretta finale. Dopo aver lavorato fino a tarda notte, sono nuovamente in videoconferenza con il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli e il ministro dell'economia Roberto Gualtieri per definire le modifiche al decreto che chiude le fabbriche non strategiche. In questo momento di emergenza coronavirus, i sindacati chiedono di ridurre il numero dei comparti e dei lavoratori impegnati a garantire la produzione solo dei beni effettivamente essenziali. Molte nostre richieste sono state accolte, dice il segretario della UIL Carmelo Barbagallo. Ora attendiamo il testo scritto del decreto ministeriale. In Lombardia e Lazio, intanto, i sindacati dei metalmeccanici hanno confermato le 8 ore di sciopero di oggi. Sciopero proclamato contro l'alto numero delle aziende non strategiche inserite nella lista di quelle che devono rimanere aperte. E da questa sera scatta anche lo sciopero dei benzinai perché, dicono i sindacati, da soli non siamo più nelle condizioni di assicurare il necessario livello di sicurezza sanitaria né la sostenibilità economica del servizio. A chiudere per prima saranno le stazioni di servizio delle autostrade, ma lo sciopero potrebbe essere anche scongiurato. Il ministro dello sviluppo economico ha infatti convocato per il pomeriggio una conference call con i sindacati di categoria. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E intanto oggi, come chiesto dalle opposizioni, inizia una gestione anche più collegiale della crisi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà in aula alla Camera. La coalizione di governo si interroga su quanto fatto fino ad oggi nell'emergenza coronavirus, con il premier Conte visto sempre più da diverse parti della maggioranza come un battitore libero e per questo messo nel mirino tanto dal PD quanto dal Movimento 5 Stelle. I malumori restano però sotto la cenere anche grazie all'opera di mediazione del Quirinale, che invita a non fare fughe in avanti verso quell'idea di governissimo che al momento non avrebbe giustificazioni. La parola d'ordine allora è quella di una maggiore condivisione nelle scelte di governo e nella comunicazione dei provvedimenti. Le opposizioni non fanno però sconti di fronte all'emergenza, servono garanzie di investimenti illimitati prima che si arrivi allo scontro sociale tra garantiti e non garantiti, dice Salvini, mentre la Meloni spiega non serve un governo di unità nazionale, ma il Parlamento deve essere luogo di confronto con una cabina di regia dove si possa fare il punto nella quotidianità. Il presidente della Camera Fico così rassicura. Il boccino o la palla è sempre in mano al Parlamento italiano. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso allarghiamo il quadro e vediamo come sta andando negli altri paesi. In Spagna il bilancio dei morti per il coronavirus ha superato quello della Cina con 3.434 vittime. In Iran i casi sono saliti a 27.000 e il presidente Rouhani ha annunciato limitazione agli spostamenti per 15 giorni. Negli Stati Uniti invece, dove il contagio cresce molto rapidamente con epicentro a New York, è stato approvato un piano a 2.000 miliardi di dollari di stimoli all'economia. In Europa invece, dopo gli annunci della Banca Centrale Europea, domani c'è un nuovo vertice per sbloccare gli aiuti. Il ministro dell'economia tedesco intanto annuncia 156 miliardi di deficit, possiamo permetterceli. At last we have a deal. After days of intense discussion. L'annuncio è arrivato nella notte americana quando, dopo ore di maratona negoziale, il leader repubblicano al Senato, Mitch McConnell, ha reso noto il via libera bipartisan all'accordo per un maxi piano da 2.000 miliardi che vanno ad aggiungersi al bazooka già messo in campo dalla Federal Reserve. Soldi questi che confluiranno alle famiglie, agli ospedali e alle imprese che stanno pagando le conseguenze di una crisi anche economica. In particolare ogni famiglia riceverà un assegno da $2.400 con un'aggiunta di $500 per figlio. Questo mentre l'Europa brilla al contrario per il suo stallo decisionale. Alla Bundestag il ministro delle finanze tedesco Scholz ha parlato di una crisi senza precedenti e ha invocato una risposta europea, risposta che stenta a prendere forma. L'Eurogruppo di ieri è stato un fallimento con la timida indicazione di aprire una linea di credito del meccanismo europeo di stabilità pari al 2% del PIL per il paese che la richiede, ma non c'è unanimità sulle condizioni per il prestito, come ha lasciato intendere il presidente dell'Eurogruppo Centeno in una lettera ai leader europei, i quali domani dovranno trovare l'intesa su questo nodo, possibilmente anche sull'ipotesi Corona Bond, altrimenti dovranno spiegare perché l'Europa fallisce quando in gioco ci sono salute e benessere dei suoi cittadini. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto in Italia continuano ad arrivare aiuti internazionali, aiuti medici, apparecchiature da diverse parti del mondo, in queste ore russi e cinesi. Un altro aereo russo da trasporto delle forze aerospaziali, il 15°, è atterrato oggi a Pratica di Mare portando attrezzature per la diagnosi e la disinfezione. L'equipe medica militare russa, arrivata nei giorni scorsi, invece, è già in viaggio per Bergamo, dove presterà il suo servizio. «Unendo gli sforzi, creeremo una via della seta della salute», aveva detto l'ambasciatore cinese Li Junhua in occasione dell'arrivo in Italia dei primi esperti cinesi. Ed oggi sbarcherà a Malpensa il terzo volo dalla Cina, con medici, esperti e forniture che vanno dai ventilatori polmonari alle tute protettive e le mascherine. Dopo 2 mesi e mezzo di misure restrittive in Cina, sono state rimosse intanto le restrizioni in vigore nella provincia di Hubei, epicentro della pandemia del coronavirus. Non si sono più registrate infezioni sul fronte domestico, ma solo contagi importati legati al rientro nella regione di cittadini cinesi. Nel capoluogo Wuhan, però, il blocco sarà rimosso solo l'8 di aprile. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi Facebook ha annunciato la riduzione temporanea della qualità dei video trasmessi in Europa per evitare di congestionare le reti internet, una mossa che riguarda anche Instagram e fa seguito a quelle analoghe fatte nelle ultime ore anche da Netflix, YouTube, Amazon e Disney, decisioni che fanno seguito alla richiesta formulata mercoledì dal commissario europeo per il digitale. E anche i riti pasquali e le preghiere del Papa si devono adattare all'emergenza coronavirus. Oggi udienza generale di Papa Francesco, trasmessa in diretta video. Sentiamo che cosa ha detto il Papa. Alle 12 cristiani di tutto il mondo si sono uniti nella recita del Padre Nostro, una preghiera ecumenica su iniziativa del Papa per fermare la pandemia. Venerdì poi alle 18 Francesco presiederà un altro momento di preghiera sul sagrato della Basilica di San Pietro con la piazza vuota. Al termine ci sarà la benedizione Urbi et Orbi con la concessione dell'indulgenza plenaria. Iniziative che si aggiungono alla messa che quotidianamente il Papa celebra a Santa Marta e durante la quale oggi ha pregato per le suore al servizio dei malati che spesso rischiano la vita. Intanto si avvicina la Pasqua e la Terra Santa si prepara a celebrarla in un modo del tutto inedito. Padre Ibrahim Faltas è a Gerusalemme. Veramente mi piangeva il cuore ieri andare al Santo Sepolcro in questo tempo di Quaresima che doveva essere migliaia e migliaia di persone, anche migliaia di italiani. Non c'era nessuno, tutto vuoto, mai successo, mai. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora il maltempo con gelo e neve sull'Italia, almeno per altre 24 ore. Colpo di coda dell'inverno sull'Italia, con neve a bassa quota e termometro in discesa. I venti gelidi provenienti dalla Russia hanno letteralmente fatto crollare le temperature da nord a sud, in particolare lungo il versante adriatico, portando la neve persino sulle spiagge. Oggi allerta arancione su Emilia-Romagna, Abruzzo e Toscana. Fiocchi bianchi a Firenze, abbondanti ad Arezzo in provincia, in particolare nelle vallate di Casentino, Val Tiberina e Val di Chiana. Nevischio anche sulla 1, ma nessun problema per la circolazione scarsa in questi giorni di emergenza da coronavirus. Sotto la neve anche le Marche nell'entroterra, dal Monte Feltro in giù, passando per il Fabrianese, il Fermano e le zone terremotate del Maceratese e del Piceno. Nell'Aquilano, in Abruzzo, il termometro è arrivato a toccare anche i meno 13 gradi. Ed è allerta arancione anche sulla Sicilia per le piogge intense e il vento forte, mentre allerta gialla su Calabria e Basilicata. Una situazione meteo che non migliorerà nei prossimi giorni e che preoccupa anche chi deve fronteggiare l'emergenza da coronavirus. Negli ospedali da campo, allestiti per aumentare i posti letto, servono infatti le stufe per tenere al caldo i pazienti. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 13 minuti, facciamo un piccolo break, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Parleremo con il professor Pierluigi Lopalco della notizia di oggi, l'OMS che dice con il rallentamento dei casi registrato nelle ultime 2 giorni in Italia si può sperare nel raggiungimento del picco questa settimana. E poi vedremo anche come si sta riorganizzando una filiera per la produzione delle mascherine nel nostro paese. Effetto giorno. Queste notizie di oggi, coronavirus, possibile picco entro questa settimana, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ne parliamo tra poco con il professor Lopalco. Negli Stati Uniti 50.000 contagi, New York l'epicentro, in Spagna oltre 3.000 vittime, superata anche la Cina. Fino a 5 anni di carcere per i positivi che violano la quarantena e multe fino a 3.000 euro, lo prevedono le nuove misure approvate ieri dal governo. In corso ancora l'incontro invece coi sindacati che chiedono sicurezza nei luoghi di lavoro. Aiuti all'economia, gli Stati Uniti approvano un piano da 2.000 miliardi di dollari. Ancora 24 ore di freddo intenso con gelo e neve sui campi al nord, ma anche in Puglia e Basilicata. Temperature in risalita da domani con possibili piogge. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, in diretta con Effetto Giorno. È con noi il professor Pierluigi Lopalco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Ben ritrovato Lopalco. Allora, notizia di oggi, in realtà ce la stiamo dicendo già da qualche giorno che questa potrebbe essere la settimana del picco, però c'è una dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in questo senso. Ci arriviamo subito. Prima vorrei, naturalmente è una buona notizia, prima però vorrei con lei approfondire invece un aspetto o due che forse sono, come dire, delle cose che magari non sono state fatte al meglio fino ad ora, cose che in spirito costruttivo possiamo a questo punto ancora provare a correggere per fare di più. Mi riferisco all'appello degli scienziati, molti scienziati, tra cui anche Remuzzi di Bergamo, che dicono: bisogna cambiare rotta su un aspetto, fare i tamponi anche ai sanitari, medici, infermieri, per evitare che gli ospedali diffondano il contagio. E poi anche un'altra cosa, controllare gli asintomatici o i sintomatici lievi che stanno sul territorio. A Milano si sta attivando una rete dei medici di famiglia per controllare questi casi sintomatici lievi. Si sa di persone che hanno i sintomi ma non sono curate da nessuno, addirittura si è sentito dire di vittime a casa senza che nessuno le abbia in qualche modo assistite. Al di là di questo aspetto c'è anche un tema di veicolo dell'epidemia. Le chiedo, sono stati fatti degli errori? C'è stata troppa ospedalizzazione della crisi fin qua? Ma ovviamente tenga presente che l'Italia è molto diversa, cioè non solo, l'Italia in questo momento è una sommatoria di diverse epidemie, cioè l'epidemia in Lombardia è completamente diversa dall'epidemia che stiamo vivendo noi in Puglia o da quella che stanno vivendo in Toscana. Quindi capisce bene che quando c'è un sovraccarico del sistema ospedaliero, tutte le risorse vanno su quel sistema, bisogna curare gli ammalati, bisogna curare i casi di polmonite, quindi è ovvio che tutte le risorse vanno lì. Siamo assolutamente d'accordo sul fatto che la prevenzione dell'epidemia, cioè per cercare di evitare di raggiungere quei picchi di casi come in Lombardia, è fondamentale lavorare sul territorio. Noi per esempio in Puglia lo stiamo facendo, cioè noi abbiamo adesso la possibilità, poiché ogni giorno arrivano più o meno 100 casi, capite bene, il sistema sanitario in ospedale non è sovraccaricato, bisogna cercare di spegnere tutti i focolai, e per spegnere i focolai bisogna fare così, bisogna andare sul territorio, individuare tutti i casi precocemente, cioè quelli pauci sintomatici, con pochi sintomi, individuarli, metterli al sicuro, fare il tampone e spegnere tutte le catene di contagio. Ecco, posto questo, posto che in Lombardia e in alcune zone della Lombardia, Bergamo, Cremona, Brescia, c'è stato un picco tale per cui l'ospedalizzazione dell'epidemia era inevitabile. Detto questo, però, io ho qua per esempio i dati di un giornalista, un collega che poco fa ha postato la Lombardia ha fatto quasi un terzo dei tamponi in Italia, però ha i due terzi dei decessi e anche quasi la metà di tutti i casi di contagio. Allora le chiedo, c'è una sproporzione a questo punto di vista? Cioè bisogna lavorare sul fatto di fare più tamponi, per esempio anche sul personale sanitario, per evitare che si creino delle catene di contagio non volute? Io sto parlando in questo caso proprio dell'anomalia lombarda, se si può dire. D'accordo, senza puntare il dito contro nessuno. Assolutamente, no, è chiaro che in questo momento quello che bisogna fare è osservare quello che succede per evitare di ripetere gli errori. Allora, il tampone a tappeto su tutti gli operatori sanitari, anche quelli senza nessun sintomo, non ha senso, perché dovremmo ripeterlo ogni giorno, capisce, su tutti, cioè ogni volta, perché se io ho un tampone negativo, dopo 12 ore quella persona potrebbe positivizzarsi. Quindi Quello che bisogna fare invece, innanzitutto ai primissimi sintomi, subito non solo fare il tampone, ma isolare la persona, cioè dobbiamo mettere la persona nelle condizioni di non contagiare gli altri, ma soprattutto quello che è importantissimo in ospedale, in tutti gli ospedali, non soltanto in Lombardia, ma anche negli ospedali delle regioni dove non c'è una circolazione fortissima del virus, bisogna avere i mezzi i dispositivi di protezione individuale, bisogna portare la mascherina. In questo momento tutti i pazienti che entrano in ospedale potrebbero essere teoricamente positivi, anche se uno va in ospedale perché si è fratturato una gamba o perché magari ha avuto uno scompenso cardiaco. Quindi mascherine chirurgiche a tutti, questo dovrebbe essere la linea da seguire. Purtroppo le mascherine, anche quelle chirurgiche, per tutti non ci sono un po' razionate. Però scusi professore, cerchiamo di lavorare in quel senso. Certo, adesso si sta attivando anche la produzione, ma sempre per voler in qualche modo individuare qualcosa che è stato fatto non al meglio, ma che può essere corretto in meglio. Non si poteva, per esempio, dire di requisire, mi pare che lo abbia fatto la Liguria, la vendita di mascherine nelle farmacie dei grossisti, per evitare che la gente che va a fare al supermercato la spesa vada in giro con la mascherina e poi ci sia magari un vigile del fuoco, lo sentiremo tra l'altro nella prossima parte, contagiato perché non ha la mascherina. Ma guardi, non conosco la situazione della Liguria. In questo momento le assicuro che le regioni stanno facendo di tutto per approvvigionarsi e purtroppo la distribuzione, diciamo, nazionale è una distribuzione un po' lenta, ovviamente si predilige la Lombardia come focolaio principale. Certo. E quindi un po' il problema dell'approvvigionamento di mascherine esiste, è inutile negarlo. Dobbiamo fare di tutto, appunto, magari attivando canali alternativi, attivando la produzione locale. Però almeno le mascherine chirurgiche in ospedale devono essere garantite. Ci abbiamo messo qualche settimana, ma stando agli annunci ieri del commissario Arcuri si sta muovendo davvero qualcosa e quindi speriamo che la prossima settimana almeno non sia come quella appena trascorsa dal punto di vista della carenza delle mascherine che, come lei ci sta confermando, sono fondamentali, necessarie per operare. Professor Lopalco, sulla questione del picco, al di là di quando sarà, quando non sarà, tutti speriamo che questo rallentamento del numero dei contagi sia indicativo, ma io le voglio chiedere, facendo un passo più avanti, no? Cosa succederà dopo? Ci sarà una ripartenza graduale, abbiamo capito anche questo, il governo si sta in qualche modo già esprimendo su questo, ci sono delle attività che secondo lei dovrebbero ripartire prima, le aziende, poi i bar, i ristoranti, le scuole per ultime, che idea ha lei, che è forse il più importante epidemiologo che c'è in Italia, sicuramente uno dei più importanti? Allora, guardi, come ha detto lei, la ripresa deve essere graduale, questo è fondamentale, perché altrimenti non ne usciremo più, perché se tutto riparte come prima, tipo gennaio, è ovvio che si innescheranno altre catene di contagio, perché comunque c'è ancora, anche se spegneremo i focolai, ci sarà una grossissima parte della popolazione che è scoperta nei confronti del virus. Quello che bisogna fare adesso, un po' in tutte le regioni, è avviare in maniera scientifica, fatta per benino, delle indagini sieroepidemiologiche. Cosa significa? Bisogna vedere in un campione di popolazione quante persone hanno sviluppato gli anticorpi contro il virus, perché questo ci darà un'idea di quella che è stata nelle scorse settimane e nei mesi scorsi la circolazione silente, quella nascosta del virus. E naturalmente la speranza è che questo percentuale sia alta, perché questo ci darebbe, come dire, ci avvicinerebbe a quella immunità di gregge di cui abbiamo sentito parlare. Questo è il tema, no? Il tema è questo. È chiaro che dubito che ci sia il 60% della popolazione che ha incontrato il virus, però potremmo vedere fascia d'età per fascia d'età magari qual è stata l'esposizione. Quindi un'indagine proprio siero-epidemiologica per capire questo, perché la domanda che forse in tanti si fanno, io me la faccio, è questa, no? In fondo al termine di questa quarantena, cioè l'obiettivo anche di questa quarantena, cos'è? Contenere i casi in modo che non si mandi in collasso il sistema sanitario e quindi le terapie intensive intensive, eccetera. Oppure anche la possibilità, la speranza che il virus, stando tutti chiusi nelle nostre case, si dissolva, resti, come diceva lei, silente, quasi sparisca, e quindi che poi non si possa riproporre un tema di contagio per tutti quegli altri milioni di italiani che non lo hanno fatto. Quale delle due... Guardi, entrambe, cioè quello che bisogna fare una volta che si riapriranno le porte delle nostre case, le porte delle fabbriche, servirà una fortissima sorveglianza locale, sul territorio, una sorveglianza in maniera che qualunque campanello di allarme venga in qualche maniera suonato in tempo, cioè bisogna suonare in tempo i campanelli d'allarme, in maniera che appena c'è la possibilità di una catena di contagio si vada a spegnere quella catena di contagio. Questo cioè, però vuol dire anche che in quel caso le misure che magari nel frattempo sono state allentate potrebbero essere di nuovo strette, cioè potrebbe esserci un andamento a fisarmonica? Magari localmente, cioè non si esclude che se dovesse ripartire un contagio in un comune, quel comune si mette sotto sorveglianza. Guardi, dobbiamo guardare un po' quello che succede in Cina. La Cina sta ripartendo gradualmente, però si vede anche lì, la gente per la strada gira con la mascherina. Molto gradualmente, scuole molto chiuse, mascherina, esatto. Precauzioni per i lavoratori. Senta, professor Lopalco, l'ultima cosa, le chiedo, anche in base alla sua esperienza, anche in base a come andò con la SARS, che invece era meno contagiosa, ma sparì poi subito dopo l'estate, non tornò più, tant'è vero che credo che non si sia più cercato di fare dei vaccini, eccetera, eccetera. Lei, la speranza che per quanto riguarda l'Italia, il nord Italia, almeno dove l'epidemia è stata più grossa, alla fine di questa onda di contagio, il virus possa, uso un'espressione così, sparire, ce l'ha un po' questa speranza o è impensabile, inimmaginabile? Allora, il confronto con la SARS non lo possiamo fare, perché la SARS era una malattia contagiosa soltanto quando la gente comincia a tossire, tanto per essere chiari. Questo virus invece è contagioso anche nelle fasi precoci, prima che compaiano i sintomi. Quindi questo virus, in termini di contagiosità, dobbiamo più paragonarlo all'influenza che non alla SARS. Questo significa che dobbiamo in qualche modo imparare a convivere con questo virus. Tenga presente che man mano che la popolazione diventerà immunizzata o parzialmente immunizzata al virus, la corsa del virus diminuisce, quindi diminuirà la sua pericolosità. Vedremo magari nel corso delle stagioni invernali dei casi di polmonite legate al coronavirus. E poi non dimentichiamo che arriverà il vaccino, quindi quando arriverà il vaccino noi proteggeremo per primi quelli che sono più suscettibili ai casi gravi, quindi gli anziani, certo, le persone più in avanti con l'età, e poi man mano, se possibile, il resto della popolazione. Quindi è una situazione in evoluzione, dobbiamo imparare a convivere con questo virus. Va bene, grazie mille professor Pierluigi Lopalco, grazie per essere stato con grazie noi. Grazie a voi. E va bene, abbiamo provato quindi a rispondere a un po' di domande che c'erano, domande anche di taglio critico, come per quella lettera inviata agli operatori dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, che abbiamo già detto anche ieri, denunciano errori, un'ospedalizzazione eccessiva della crisi. L'altra, appello degli scienziati sempre di Bergamo, che chiedono di fare più tamponi ai sanitari e di curare gli asintomatici lievi sul territorio. E poi anche la questione del picco questa settimana o meno, il ritorno alla normalità sarà graduale, così ci ha detto il professor Lopalco. La questione invece che adesso vi andiamo a raccontare è quella della produzione di mascherine. Il Politecnico di Milano valuterà l'idoneità dei materiali, già centinaia le candidature per un progetto che coinvolge Regione e Università. Anna Marino. Milioni di mascherine contro il coronavirus, con un packaging che riporta una sorta di marchio approvato dal Politecnico di Milano e da Regione Lombardia. Questo è l'obiettivo del progetto congiunto che da due settimane vede prove su prove per verificare quali materiali e quali dispositivi sono idonei e quali imprese sono in grado di realizzarli con i migliori standard di qualità, tra quelle che si candidano anche via email. Quella dedicata è EDP Coronavirus @regione.lombardia.it. Almeno 300 finora hanno scritto in una settimana, ma possono proteggere solo mascherine certificate idonee, come spiega l'assessore regionale all'ambiente e clima Raffaele Cattaneo. Purtroppo non tutte queste segnalazioni di disponibilità sono idonee a rispondere al bisogno. Le imprese che già facevano questo non sono sufficienti e dalla riconversione anche in parte dei propri impianti è nata una nuova filiera di aziende. Sono produzioni al costo, ovviamente non gratuite, alcuni hanno anche comunicato di voler tornare i prodotti. soggetti. Noi abbiamo già indicazioni di soggetti che sono pronti a produrre 200-300 mila mascherine al giorno in questi impianti riconvertiti, 5 soggetti che sono pronti a partire. Quindi noi riteniamo che dalla prossima settimana avremo forniture che, crescendo nel numero e andando a regime, potranno garantire parecchie centinaia di migliaia di mascherine al giorno. Il nostro obiettivo è arrivare a una fornitura di 2-3 milioni di mascherine al giorno. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E speriamo davvero che questa produzione interna contribuisca, serva davvero a raggiungere il livello di autosufficienza, che però, ricordiamo, è molto alto, perché si parla di 40, 50, 60 milioni di mascherine al giorno per il nostro paese. 13:31 minuti, facciamo una piccola pausa, torniamo tra un attimo. 349-238-6666. Radio 24 è sempre con te, ci siamo sempre stati. E in questo periodo difficile continuiamo ad esserci, anzi, ancora di più. Resta a casa. Noi pensiamo ad informarti con i nostri GR, ad intrattenerti con i programmi in diretta anche in video. Con contenuti speciali creati apposta per te, che puoi ascoltare da casa tua quando vuoi. Scarica la nostra app o vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti, gli speciali, le dirette e i podcast esclusivi, sempre disponibili sulla nostra homepage e su tutte le principali piattaforme. Resta a casa con Radio 24. Noi ci siamo sempre. Radio 24. La passione. Si sente. Si sente. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus, possibile picco in Italia entro questa settimana, dice l'OMS. Raggiunto l'accordo governo-sindacati, rivisto l'elenco delle attività essenziali, sindacati soddisfatti. C'è anche il caso delle categorie esposte ma poco protette, come polizia e vigili del fuoco, che chiedono mascherine e la possibilità di fare il test. Aiuti all'economia, gli Stati Uniti approvano il piano da 2.000 miliardi di dollari, domani nuovo vertice invece per l'Europa, la Germania intanto conferma 156 miliardi di deficit. Ancora 24 ore di freddo intenso e gelo sui campi al nord e in Puglia, temperature in risalita da domani. Minuti. Ben ritrovati, cari ascoltatori, in diretta con Effetto Giorno. I vostri messaggi al 349-238-6666, o se volete commentare ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, ma anche sul sito di Radio 24. Allora, qualche messaggio per quanto riguarda l'intervista del professor Lopalco. Complimenti perché per la chiarezza dell'esposizione di Lopalco, che è bravissimo. E poi a proposito della questione che lui diceva dei test sierologici, sieroepidemiologici, che andranno fatti dopo su tutta la popolazione o quella sensibile, ha detto Lopalco, per capire quanto il coronavirus, al di là dei casi conclamati e curati negli ospedali, si sia in realtà diffuso tra la popolazione, e speriamo molto, molto, perché in maniera asintomatica, ma questo contribuirebbe ad arrivare a quella immunità di gregge, a quel 50-60% di italiani che hanno fatto l'influenza, che eviterebbe l'espandersi dell'epidemia. Ebbene, un ascoltatore ricorda che in Toscana il personale sanitario fa già questo test, il test sierologico, per vedere chi ha gli anticorpi, che è un test, ricordiamo, non determinante, non come dire ultimativo, che dà una risposta certa, però se ci sono gli anticorpi in giro vuol dire che c'è stato un contatto con la malattia, magari un contatto lieve, ma è un fatto comunque da segnalare positivo, perché appunto il ragionamento l'abbiamo già spiegato. Poi c'è chi parla del lavoro nelle fabbriche. Buonasera, ci saranno altri focolai, scrive questo ascoltatore, perché nelle fabbriche non viene neanche misurata la temperatura, e sono tanti che se hanno qualche disturbo non lo dicono finché non stanno male, perché le cooperative non pagano la malattia e fanno contratti a chiamata. Questo purtroppo accade in tante situazioni lavorative, fortunatamente in tante altre non è così. Adesso poi vedremo dall'incontro che c'è stato tra il governo e i sindacati, che è terminato proprio pochi minuti fa con un esito positivo, i sindacati sono soddisfatti, vedremo se è stato raggiunto qualche elemento in più di sicurezza per i lavoratori. Il punto di Alberto Rioli. Il punto di Alberto Orioli. L'Europa si rovella a discutere come articolare i fondi da destinare agli stati falcidiati dal coronavirus, che congela le economie e costringe le imprese a un fatturato zero. Ci sono i soliti falchi del nord che vorrebbero erogare i denari europei del fondo salva stati a patto di condizioni capestro, peraltro verso nazioni già in ginocchio per la glaciazione degli scambi economici. C'è invece l'asse del Club Med, con Italia e Francia in testa, che chiedono erogazioni senza condizioni proibitive, diventate peraltro antistoriche. La UE di Ursula von der Leyen ha più volte annunciato di voler fare tutto quello che è possibile per salvare le economie dell'Eurozona e ha già fatto qualcosa con l'addio al limite del deficit e con un primo piano da 37 miliardi. Un non nulla rispetto ai 2.000 miliardi di dollari messi in campo dagli USA. Ma è qualcosa e vale come indicazione politica. Purtroppo l'Europa poi si impantana nelle sue tortuose procedure decisionali e perde di vista che salvare i paesi più deboli, presto e bene, significa alla fine salvare l'Europa. Oggi è il Dante D, ma pazienza se è più utile citare Manzoni. L'Europa del coronavirus è come il Don Ferrante sulla peste, disquisisce se sia sostanza o accidente, salvo poi contagiarsi e morire. Tra le notizie di oggi c'è anche quella del sindacato di polizia che chiede di poter fare test e tamponi ai poliziotti, agli operatori che hanno dei sintomi e che chiedono di poter sapere chiaramente se hanno il coronavirus, se hanno bisogno di cure specifiche dopo essere stati in prima linea come operatori. In questo momento del controllo delle misure di contenimento. Qualcosa di analogo succede anche tra i vigili del fuoco. È con noi Stefano Giordano, coordinatore nazionale del sindacato USB Vigili del Fuoco. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, lei lavora a Genova, giusto? Sì. Da tanti anni è un vigile del fuoco. 22 anni. Da 22 anni. Un suo collega che lavora alla centrale operativa del comando di Genova ha avuto la febbre, la tosse per 10 giorni e mostra tutti i sintomi legati al coronavirus. Ha chiesto di fare il tampone, gli è stato negato per 3 volte. Ha scritto al comando per chiedere un aiuto da questo punto di vista, un supporto, visto che parliamo comunque di un settore ritenuto strategico, ma non ha ricevuto risposta. A questo punto voi, se ho capito bene, vi siete autotassati a vostre spese per fargli fare il tampone in un laboratorio privato, è così, Giordano? Sì, presi comunque da una stretta di percorso che non dà possibilità di avere un risultato diciamo certo, ci siamo mossi autotassandoci e finanziando economicamente questo esame, che è l'esame del sangue che controlla se ci sono gli anticorpi e quindi certifica in qualche modo se è stato contratto il coronavirus. Intanto le vorrei chiedere come sta il suo collega. Diciamo che oggi è il primo giorno in cui la parabola inizia a scendere, cioè la febbre è scomparsa, è il primo giorno che dopo 13 giorni di febbre a 38, oggi è il primo giorno che non ha febbre, ma comunque continuamente questa tosse persistente. Questa comunque è una buona notizia, meno male. Senta, le posso chiedere anche quanto costa fare il test privatamente in questo laboratorio a cui siete rivolti voi? 100 euro. 100 euro. E in quanto tempo realizzano questo test? 24 ore. 24 ore, quindi sembra che sia alla portata. Ora, sulla questione del fare i tamponi, farne di più, fare i test, lo abbiamo già detto oggi, ma anche nei giorni scorsi, ci sono richieste che arrivano dall'OMS, dagli scienziati di Bergamo che hanno scritto una lettera per fare tamponi alle categorie esposte, anche i vigili del fuoco, anche la polizia, oltre che naturalmente il personale sanitario. Quindi non si capisce perché davvero non si riesca a dare una risposta a queste persone. Nel vostro caso il comando che risposta ha dato al diniego di fare questo tampone? Un silenzio assordante, nel senso che il laboratorio ha scritto al comandante, all'ufficio personale, nonché al medico del comando, avvisandoli che da giovedì scorso il medico di base ha messo in quarantena la famiglia perché i sintomi sono riconducibili al Covid. È che viviamo una situazione completamente assurda nella regione Liguria, dove c'è solo un laboratorio di analisi in tutta la regione che svolge circa 300 tamponi al giorno. Ora sembra che la regione si stia mettendo comunque in corso ad aprire altri laboratori, sì, e si arriverà a 1000 tamponi al giorno. Perché è stato detto che effettivamente si possono coinvolgere aziende che lavorano nelle biotecnologie, centri di ricerca che non sono magari direttamente legati a questo tipo di analisi, ma che possono rapidamente riconvertirsi con tanti ricercatori bravi che possono dare una mano, e poi coinvolgere anche tutti, insomma, i laboratori, non solo quelli certificati dall'ISS, il Istituto Superiore di Sanità, ma estendere la rete di questi centri che fanno i tamponi. Questo è quello che mi hanno detto che potrebbe accadere in Liguria? Potrebbe essere una delle soluzioni che comunque certifica l'assoluta depauperazione della struttura pubblica, che oggi è veramente messa in ginocchio e che è l'unica che è in prima linea, quindi certo, coinvolgere tutto quello che sono risorse è sicuramente positivo. La cosa grave è che nel comando di Genova, della sesta città d'Italia, c'è assolutamente un percorso che non mitiga, diciamo, la diffusione del virus, e in questi casi non è l'unico caso. Il fatto che oggi mi hanno chiamato un paio di colleghi che si trovano nella stessa condizione, e vedremo se continuare su questa linea, cioè utilizzare delle strutture private, perché la struttura pubblica in questo momento non è in grado. Senta, mascherine come state, Giordano? Mascherine sono centellinate per gli interventi, c'è stata una stretta violenta dal punto di vista anche di ordini del giorno, dove si dice continuamente di utilizzarle solo per lo stretto necessario, solo quando è conclamata una situazione di possibile contatto con il virus. All'interno delle caserme noi... Però scusi se la interrompo, però capite che questo è veramente complicato, come fa un operatore a sapere che c'è un rischio del virus? Se lo sapessimo che stiamo a contatto col virus, allora non ci sarebbe il contagio. È proprio quello che non si sa, e quindi la mascherina serve a prescindere se uno è un operatore, per esempio come voi, che deve andare a fare certi tipi di servizi. Noi diciamo che le mascherine devono essere utilizzate in questo momento anche all'interno delle sedi, proprio in virtù del fatto che il Dipartimento non ha messo nessuna azione che possa mitigare il virus all'interno dei luoghi di lavoro. Riteniamo che i vigili del fuoco, come la sanità, che adesso veramente in trincea, è un settore strategico del nostro paese, e quindi il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ma in generale adesso anche il Ministero della Salute, deve mettere in atto tutte le azioni possibili per mitigare la diffusione in settori che, ahimè, se si dovessero tutti ammalare, non saprei come si può svolgere il soccorso tecnico urgente nel nostro paese. Insomma, grazie. Noi siamo i più conclamati di pacche sulle spalle, ma i dimenticati senza IA. Tante pacche sulle spalle, ma poi in certe situazioni queste pacche sulle spalle non bastano. Grazie Stefano Giordano, grazie coordinatore nazionale a tutti dell'USB Vigili del Fuoco. E speriamo che la situazione si possa risolvere anche per queste categorie, che non saranno in primissima linea, in primissima trincea, come accade negli ospedali, ma stanno facendo il loro lavoro rischiando anche in prima persona. Carlo Genta, ciao. Ciao Carlo. Alessio, buongiorno a tutti. Allora, pagina sportiva, cosa resta? Lo stiamo dicendo da giorni. Cosa resta? Resta il tempo delle decisioni. Sì. Ieri abbiamo comunicato in diretta a Zanardi quella del CIO, certo, che ha deciso di rinviare l'Olimpiade. C'è stata che contorni ha questa decisione? Cioè, c'è già qualcosa di preciso? Date? C'è stata questa mattina una videoconferenza, una videoconferenza stampa di Bach, presidente del CIO, ha partecipato anche Dario Ricci, che poi sentiremo. Sostanzialmente si tratta di definire una data, perché il CIO ha detto 2021, estate 2021, rimanendo sul vago, però è chiaro come il calendario delle Olimpiadi vada ad impattare su quelle di tutti gli altri eventi, ad esempio mondiale atletica di nuoto programmati per l'anno prossimo. Insomma, si tratta di definire con un minimo di certezza un periodo preciso. E poi tutti vogliamo avere una data a cui aggrapparci. Tutti vogliamo avere una bandiera laggiù in fondo, una fiamma da raggiungere. Esatto. Guarda, faremo un bel giro tra vari atleti olimpici. Bene. Ad esempio Datome, che tra l'altro gioca in Turchia, con il Fenerbahçe, sarà un'occasione anche per farci raccontare qual è la situazione lì. Poi Chicco Blengini, allenatore della nazionale italiana di pallavolo, e poi avremo Davide Cassani ed Elia Viviani, cioè medaglia d'oro e commissario tecnico del ciclismo all'ultima Olimpiade di Rio. Insomma, facciamo belle un voci di sport olimpici. Belle voci oggi. E domani pomeriggio. Alex Del Piero. Molto bene. Allora più tardi. Grazie Carlo, appuntamento con te dopo il GR delle 14. Adesso invece facciamo un break, torniamo tra un attimo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.